Fresh Bit di Giulia Crivelli. Graphic. First, I would like to thank all the older women in America who have sent me supportive, inspiring and sometimes graphic emails. Brad Pitt ha scelto queste parole per iniziare la sua imitazione di Anthony Fauci, il virologo che Donald Trump ha voluto nella task force per l'emergenza coronavirus, salvo poi entrare in aperto conflitto con lo scienziato, al punto da portare a vari sketch in trasmissioni comiche, come Saturday Night Live, forse il più famoso programma americano di questo genere, dove Trump viene in generale interpretato da Alec Baldwin. Per Pitt è stato un esordio e chi volesse farsi due amare risate può trovare tutto su YouTube. A noi interessa l'aggettivo graphic. Prima di tutto vorrei ringraziare tutte le donne americane di una certa età che mi hanno mandato email di solidarietà, incoraggiamento e a volte esplicite, dice Pete Fauci. L'aggettivo graphic è entrato nell'uso comune per indicare appunto un contenuto esplicito, a sua volta un eufemismo per dire che si tratta di immagini o filmati violenti o a forte carattere sessuale. Nello sketch di Brad Pitt la frase si inserisce nella parodia, peraltro molto garbata, di un uomo di scienza che deve tener testa alle intemperanze, spesso antiscientifiche, del presidente degli Stati Uniti. Come spesso accade con uomini che tirano fuori il meglio di sé nelle crisi, mantenendo calma e dignità, alcune donne iniziano a vederli come sex symbol, senza che siano necessariamente di bellissimo aspetto come Brad Pitt. E torniamo a graphic e vediamone altri usi, perché in origine, ovviamente, significa proprio grafico, come in italiano. Graphic designer è il modo in cui si indica la professione di grafico, ma l'aggettivo è ormai più usato come traduzione, ribadiamo, di vivido, esplicito. He kept telling us about his operation in the most graphic detail. Continuava a raccontarci dell'operazione chirurgica alla quale si era sottoposto, entrando nei dettagli più impressionanti. That historian gave us a graphic account of that epic battle. Quello storico ci lasciò un resoconto dettagliato di una battaglia epica. Se invece vogliamo parlare di materiale grafico, dobbiamo usare il plurale, come accade con economics o politics. Quindi text and graphics are prepared separately and then combined. La parte di testo e quella illustrata sono preparate separatamente e poi combinate. My daughter is an expert in computer graphics. Mia figlia è un'esperta di programmi di grafica. Graphic novel, infine, è una definizione abbastanza recente di fumetto. Si usa in genere per indicare un vero e proprio romanzo a fumetti, il cui esempio più famoso resta Mouse di Art Spiegelman, che valse al suo autore il Pulitzer per la letteratura, un premio che non era mai andato a un'opera a fumetti.